In realtà era un risultato ampiamente atteso, ce l'aspettavamo, insomma era un po' abbastanza evidente che andasse così, perché poi al netto della rilevanza dei sondaggi era chiaro, insomma, che non si fossero spostati molti voti rispetto al primo turno, o comunque che non avesse perso granché, quindi era un risultato del tutto atteso. In realtà già tra di noi, i miei colleghi e amici brasiliani, già consideravamo per data la vittoria da tempo, insomma già eravamo nel post voto. Ti chiederei anche di farci un attimo un riassunto di chi è Bolsonaro, visto che a questo punto sappiamo che sarà presidente del Brasile. Chi è questo personaggio? Ma innanzitutto io molto brevemente, 2 anni fa quando ero in Brasile, quando insomma gli scandali della corruzione, insomma una serie di problemi venivano fuori, nel momento successivo alle Olimpiadi, che hanno avuto un loro ruolo che non possiamo ovviamente in questo momento analizzare, si parlava di questo Bolsonaro. Lui in realtà è in Parlamento da molti anni, e quando venne fuori l'idea, insomma, questa cosa che potesse candidarsi alla presidenza, e molti ci abbiamo non riso, ma insomma l'abbiamo data come una possibilità remota, perché principalmente perché per le sue posizioni, che sono sempre le stesse, va detto, non è che Bolsonaro abbia cambiato modo di vedere, o abbia cambiato le sue espressioni, o abbia cambiato le sue ideologie. Lui è sempre stato così, e grazie a questa sua posizione radicale, che io non esito a definire radicale, è riuscito sempre a ottenere un grosso risultato elettorale. Lui nel 2013 ottenne 480.000 voti, insomma, quindi neanche pochi. Il personaggio è quello che è stato presentato molto spesso, soprattutto dalla stampa internazionale, da quando ha iniziato a occuparsene, cioè tardi, per cui è sostanzialmente un ex ufficiale dell'esercito di medio rango, grado di capitano, che tra l'altro viene definito come questo grande eroe di guerra, ma in realtà lui è stato un capitano dell'esercito per circa 10 anni, quindi neanche tanto. Poi ha lasciato, insomma, l'incarico per dedicarsi alla politica. Tra l'altro, le note che venivano fatte dai suoi superiori rispetto al suo atteggiamento, al suo comportamento e alla sua qualità non sono per nulla positive, quindi già la rappresentazione del grande militare non è aderente assolutamente alla realtà da nessun punto di vista. Voglio dire, io non sono né militarista né antimilitarista, ho avuto anche esperienze professionali a strettissimo contatto con forze dell'ordine e forze armate, sia in campo internazionale che in campo nazionale, quindi tanto, ne ho anche studiato per questioni professionali riguardanti i crimini di guerra. Voglio dire, non è che sia, insomma, da cima, insomma, come viene definito. È riuscito ad aprirsi un margine, come abbiamo detto anche in occasione della prima tornata elettorale, aprirsi un margine in un momento particolare, un momento nel quale le persone avevano bisogno di risposte semplici, avevano bisogno di risposte magari nelle quali, come dire, uno slogan ha funzionato più di un'articolata anamnesi o analisi di un problema. Diciamo che successivamente all'impeachment della presidentessa Dilma, che ha portato alla destituzione della presidentessa eletta, gli stessi partiti che l'avevano accusata, che avevano montato questo grande movimento politico contro Dilma, accusandola di essere corrotta, poi si sono rivelati a essere molto più corrotti loro, per cui le persone hanno detto: ok, ci avete fatto appoggiare l'impeachment di Dilma basato su nulla, perché ricordiamo che Dilma non aveva nessun tipo di responsabilità penale, e molto limitatamente dal punto di vista politico aggiungerei. È stata destituita, i partiti che hanno favorito la sua destituzione per difendersi dalle accuse di corruzione poi ne sono stati travolti, per cui abbiamo visto dal primo turno i partiti di maggioranza, o il partito SBB per esempio, che aveva preso il 33% al primo turno e il 49% al secondo turno contro Dilma, è sparito, ha preso il 2%, e l'1% l'ha preso il candidato dell'MDB, che sarebbe il partito del presidente in carica, perché le persone hanno detto: ok, quello era ladro, questo è ladro, quell'altro è corrotto, quell'altro non è buono, a chi ci dobbiamo affidare? E in questo è stato molto scaltro Bolsonaro nel farsi consigliare, soprattutto perché è evidente anche dal suo modo, dal linguaggio che utilizza, dal suo modo di esprimersi, dalla qualità proprio lessicale, direi io, diciamo, della sua espressione, non è certo presidenziale, diciamo così, per cui si è lasciato consigliare, ha capito che doveva andare a inserirsi in quel malcontento nel quale erano stati travolti prima il PT, il partito dei lavoratori, del partito di Lula, e poi tutti gli altri partiti che si erano opposti a quelli, per cui nella mancanza di offerta si sono affidati a lui, e lui è stato estremamente scaltro a capire anche che i grandi giornali corporativi, come li chiamano i brasiliani, che sono stati quelli che hanno montato ad arte, come dire, l'onda anti-Dilma perché si facilitasse l'impeachment, lui ha capito che lì, anche perché lo hanno sempre trattato un po' con la puzza sotto il naso, va detto, perché questi appartengono a delle elite anche colte, ricche, un po', diciamo, un po' più di respiro internazionale, invece Bolsonaro comunque viene dal popolo, una persona che viene dal basso, per cui quando parla al popolo parla a qualcuno che, come dire, con il quale condivide cultura e messaggio, diciamo così, per cui ha anche evitato i grandi media, ha cominciato a crescere attraverso soprattutto i social media, con tutto quello che implica, insomma, i social media, quindi semplicità del messaggio, velocità, slogan, condivisione e identificazione, che è la cosa più importante, per cui lui ha cavalcato dei temi molto sensibili per la popolazione, li ha presi alla pancia e poi è partita l'onda ed è stata inarrestabile, al punto che come dire, poi si è arrivati alla crescita esponenziale del consenso intorno al suo nome. Io dico, e lo dico con molta sicurezza, lui è attualmente investigato da parte della magistratura brasiliana perché pare che è stato accusato, è stato coinvolto in un'inchiesta secondo la quale avrebbe, se condizionale d'obbligo, come dire, pagato, insomma, avrebbe ricevuto dei soldi a nero, tra l'altro, da alcune aziende, insomma, è stato accusato di aver pagato una campagna, diciamo, diffamatoria con la diffusione di messaggi falsi attraverso, quindi fake news adesso si chiamano, attraverso e questi messaggi indirizzati a, come dire, a prendere alla pancia gli elettori, ipotizzando, insomma, meccanismi che si studiano, io ho studiato crimini internazionali e si studiano normalmente nell'analisi dell'escalation che porta ai genocidi, quindi l'identificazione di un gruppo, l'identificazione di un capo espiatorio, che ricordiamo nella Germania del 33 qual è stato e qual è stato l'esito soprattutto. Per cui lui ha cominciato a montare quindi questa campagna di odio nei confronti del partito dei lavoratori, quello di Zuma e Lula, che è sì un partito di sinistra, che ha fatto sì gli interessi del popolo, che ha fatto sicuramente tantissimi errori, che sicuramente non è un partito immune alla corruzione, che in Brasile è una parte, come dire, l'ossatura sostanzialmente di uno Stato, essendo anche uno Stato di giovane democrazia, con dei problemi strutturali suoi, e ha cominciato, diciamo, i messaggi fake news erano indirizzati alla criminalizzazione, annunciando un pericolo Venezuela, dicendo che l'idea era quella di istituire un governo comunista, cioè utilizzando parole in maniera molto così, visto che comunque il Brasile è un paese sostanzialmente dalle strutture economiche neoliberali, di fatto anche con Lula lo è stato, seppure con qualche modifica e qualche aggiustamento, però comunque è un paese con economia di mercato, le strutture economiche istituzionali sono completamente diverse da quelle del Venezuela, insomma non c'era nessun pericolo comunista, tra l'altro anche usare questa parola a mio parere è un po' come dire fuori luogo, però lui ha detto questa cosa, è stato accusato sostanzialmente il governo di non aver saputo gestire l'economia, di essere tutti corrotti, per cui l'onda è partita ed è stata inarrestabile e ci ha portato all'elezione. E invece guardando un po' al futuro, diciamo, cioè quali saranno adesso le politiche che Bolsonaro potrebbe mettere in campo e soprattutto secondo te saranno all'interno del solco democratico? Ma allora, innanzitutto il solco democratico è questo, cioè come dicevo anche l'altra volta, allo stesso modo di come l'impeachment è stato un procedimento assolutamente, diciamo un procedimento che ha seguito l'iter legale, istituzionale, costituzionale, seppur ovviamente guidato dalla politica, allo stesso modo Bolsonaro al momento reati non ne ha commessi, cioè voglio dire, è stato eletto dal popolo, non ci sono state frodi, non ci sono stati colpi di Stato, non c'è stato nulla, lui è stato eletto dal popolo, quindi fino ad ora la democrazia, come dire, ha trionfato, possiamo dire, perché così è che funziona. Quanto questa democrazia possa essere messa a rischio in futuro è da valutare e delegherei ovviamente scienziati politici per fare delle anamnesi più strutturate. Di certo quello che sappiamo è che dal punto di vista economico sarà portato avanti una ricetta, non è stata granché specificata in campagna elettorale, però quello che si sa è quello che Naomi Klein definisce shock economy nel suo libro, che consiglio a tutti di leggere tra l'altro, quindi una ricetta estremamente ultra neoliberale, diciamo così, quindi shock nel senso di tagli alla spesa pubblica con relativi licenziamenti, immagino, tagli alla spesa sociale e privatizzazioni selvagge, insomma quello che è stato visto negli anni 60 e 70 in Brasile, in tutta l'America Latina durante a cavallo prima e dopo delle dittature, che è stato visto anche in altre parti del mondo, insomma la ricetta di una volta, quello che è stato poi adottato anche da Reagan e dalla Thatcher, insomma quello è più o meno il quadro, la prospettiva dal punto di vista strettamente economico. Dal punto di vista sociale i tagli saranno enormi, per cui saranno tagliate borse di studio, aiuti alle famiglie, o almeno questo è quello che ha annunciato, borse di studio, aiuti alle famiglie, quote riservate alle minoranze etniche, insomma tagli alle scuole, all'istruzione pubblica, per cui i soldi usciranno da lì per dare l'illusione di una ripresa economica, e poi la privatizzazione selvaggia, che è sostanzialmente la cosa che ha caratterizzato fortemente la politica di Lula nell'aver voluto nazionalizzare la Petrobras e tutte le altre aziende energetiche, nell'essersi garantito in questo modo l'indipendenza energetica del Brasile, che è stata una delle grandi mosse, uno dei grandi risultati di livello internazionale, che lo ha fatto un po' come dire finire nell'odio dell'inquilino del nord, e sostanzialmente questa privatizzazione ha portato poi alle politiche diciamo assistenziali, insomma di aiuto ai poveri, io non le chiamo assistenziali, che ha caratterizzato il governo di Lula. Quindi tutto sarà privatizzato, taglia le spese, taglia la spesa pubblica, e questa è la situazione. Poi preoccupa moltissimo la questione sicurezza, e questa è una cosa, quindi, a parte che ho vissuto più da vicino, ho studiato più da vicino, è una cosa che mi preoccupa molto, perché e le sfilate di ieri dei militari, c'è un video che circola, ho anche avuto io, di questi furgoni dell'esercito brasiliano, che sono usciti spontaneamente senza nessun ordine dal proprio, insomma, dalla propria caserma, e hanno sfilato per le strade osannate da parte della popolazione. Questo ci fa capire che come dire, le forze armate senza ordine assumeranno una postura diversa. Il problema è che in termini di violazione dei diritti umani questa postura è già estrema in questo momento, per cui mi chiedo come possa finire. Chiaro che il pugno di ferro è quello che vogliono tutti, l'idea è che la pubblica sicurezza, che la sicurezza si basi sulla guerra, sull'eliminazione, sulla conquista, e non sul miglioramento delle indagini e sul miglioramento della risposta sociale, che insomma ci voglia mano dura. Tra l'altro, la cosa che preoccupa di più, io ho scritto un articolo di recente per Osservatorio Diritti, nel quale riporto che l'anno 2018 è l'anno nel quale sembra registrato il maggior numero di omicidi causati dalla polizia, che vengono definiti atti di resistenza comunemente, e il problema è che pur essendo, diciamo, impuni nella maggior parte dei casi, comunque restano reato. La proposta di Bolsonaro è che tutti gli omicidi commessi da forze armate e forze di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni non vengano giudicati come omicidi e vengano, come dire, esentati da qualsiasi responsabilità penale. Questa è una cosa che praticamente li rende legibus solutus. In pratica, un militare, basta che abbia la divisa addosso, può praticamente uccidere chiunque senza essere perseguito e senza che nessuno gli chieda nulla. Questa cosa è molto inquietante, e ci dà una possibilità, partendo da questo, di immaginare anche poi tutto il resto a seguire. E ovviamente Bolsonaro è quello che vuole armare la popolazione per autodifendersi, e quello che dice che il poliziotto che non ammazza non è un buon poliziotto, per cui questi messaggi di identificazione, questi messaggi di odio hanno portato a una serie di attività, di violenze brutte, di violenze anche, diciamo, volgari da parte di cittadini comuni che si sentono autorizzati, perché magari quello spirito, cioè non è che noi brasiliani siamo diventati nel corso degli ultimi 2 anni dei razzisti, omofobi o misogini o violenti, lo sono sempre stati. Il problema è che adesso si sono autorizzati a scendere per strada e si sentono liberi di poter manifestare quello che loro pensano sia giusto, che fino a qualche tempo fa qualcuno gli faceva notare che era sbagliato. Adesso, con l'elezione di Bolsonaro, che ha sempre propagato questo tipo di idee, è chiaro che si sentiranno autorizzati a fare tutto.